Nel mezzo del cammin di nostra vita, non devo bestemmiare, no, non devo bestemmiare. Ecco, ve ne dico, caccia nemico, che vi assicuro in vita mia non lo avevo mai sentito. Ancor più sotto Taide con le sue lusinghe, anche se sei gnocca non posso accettarle. Ecco che troviamo gli indovini, che fortuna, manca Paolo Fox perché non ne azzecca una. È bellissima sta foto, sento questa voce da lontano, sono le ragazze che su Instagram commentano le foto. E se ci penso bene, confrontando questo inferno mica è tanto male, ma vi prego adesso basta, sono alla deriva, sono nella bolgia. Ecco la discordia ancora, i traditori dei parenti, tipo quelli che a Natale ricevono calzini e fingono di essere contenti. Finisco con il traditore della patria, quello che nelle programmate d'italiano, per non aver studiato, resta a casa e finge di essere ammalato.